Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi. Stamattina ho invitato a prendere il caffè con noi il dottor Fabrizio Fantini, direttore dell'unità ospedaliera complessa di dermatologia all'ospedale di Lecco. Il suo team, pensate, è stato tra i primi al mondo a descrivere le manifestazioni cutanee del coronavirus. Ma intanto, buongiorno dottor Fantini, benvenuto tra noi, grazie. Grazie a lei, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Dottore, in questi mesi di pandemia abbiamo capito che il Covid-19 non colpisce solo l'apparato respiratorio, ma interessa anche altri organi e apparati come quello cardiovascolare, gastrointestinale o circolatorio. E il vostro studio dimostra che può colpire anche la pelle ed evidenziarsi proprio attraverso manifestazioni cutanee che sono presenti, naturalmente in modalità differenti, sia nei pazienti con infezioni in corso, sia in persone asintomatiche. Ci vuole raccontare, o meglio, dottor Fantini, aiutare a leggere la nostra pelle? Cosa avete scoperto? Come dice lei esattamente, abbiamo osservato alcune cose nuove in corso di infezione. Beh, intanto il virus si comporta un po' come fanno gli altri virus e quindi sono possibili manifestazioni cutanee generalizzate in corso di quella che è una patologia infettiva conclamata, appunto con sintomi respiratori, gastrointestinali, vascolari o d'altro. In questo caso le manifestazioni cutanee non sono dissimili da quelle che si osservano in corso di altre virosi per azione diretta o come quadro reattivo al virus. Quindi potremo avere pazienti sintomatici che sviluppano dei rash di tipo che assomigliano a quelli dei comuni esantemi infantili, quindi morbillo, rash vescicolosi tipo varicella o quadri di orticaria o simili all'orticaria più o meno diffusi. E questi di solito accompagnano la sintomatologia più classica, sono quadri di solito fugaci che sono autorisolutivi in alcuni giorni o poche settimane. E queste, diciamo, accompagnano i pazienti sintomatici che sono all'osservazione del medico, ovviamente per altri tipi di impegni sistemici sicuramente più complessi e più impegnativi. Ma curiosamente abbiamo cominciato a osservare, queste osservazioni sono state poi confortate da report che sono venute fuori in numerose parti d'Italia e del mondo, anche dei quadri un pochino più curiosi, cioè con manifestazioni cutanee assolutamente minime. All'inizio sono state etichettate come geloni, come se ci fosse un'epidemia di geloni in corso di pandemia da coronavirus. Che considerando la stagione sembra un po' improbabile. Esatto. Sembrava un po' improbabile, sia per la stagione, sia per il fatto che ovviamente c'era il lockdown, quindi questi pazienti che spesso erano, a differenza del quadro classico, giovani o giovanissimi, erano poi tutti in casa, ma poi un gran numero di manifestazioni osservate contemporaneamente attraverso i social, abbiamo saputo che in tutte le parti d'Italia e del mondo venivano riportate osservazioni simili. Gli americani hanno addirittura coniato il termine dito da Covid, proprio per sottolineare che sono manifestazioni abbastanza peculiari, caratteristiche e che colpiscono prevalentemente le estremità. Quindi assomigliano ai classici geloni, ma non sono classici geloni. Oltretutto queste manifestazioni a volte si ritrovano anche in casi familiari, anche se raramente. Cosa si può dire di questo? Sono lesioni spesso minime, anche una, due o comunque poche, e assomigliano proprio ai classici geloni, sono quindi delle lesioni eritematose, un po' gonfie, che possono fare prurito, di solito alle dita o al palmo delle mani, e sono anche queste di solito risolutive in qualche giorno, qualche settimana. Quindi non è tanto la gravità dell'impegno cutaneo, dato che sono lesioni assolutamente benigne e autorisolutive, quanto il fatto che possono essere interpretate come una spia, una spia di infezione. Di infezione, comunque possono essere correlate all'infezione. Ecco. Perché un'altra peculiarità di questi casi è che molto raramente il test di laboratorio, quindi tampone o sierologia, danno una positività anche nei report che cominciano a apparire in letteratura. I casi poi confermati attraverso test di laboratorio sono veramente pochi. Che cosa ci portiamo a casa dal vostro studio? Okay, i messaggi da portare a casa sono sostanzialmente che la cute può essere interessata in corso di infezione da coronavirus. I quadri cutanei sono di solito quadri minimi e quadri assolutamente benigni, quindi si risolvono in qualche settimana. Quindi soprattutto non allarmarsi, però potendo essere un indizio di possibile infezione occorre contattare il proprio medico di fiducia o il dermatologo ospedaliero, dermatologo di fiducia territoriale, perché sì, appunto potrebbero essere una spia di infezione, di avvenuto contatto col virus. A questo proposito l'Associazione Dermatologi Ospedalieri, la DOI, ha pubblicato proprio, abbiamo dato diciamo così le indicazioni da seguire in questi casi, e si trovano sul sito della DOI se uno vuole andare a cercarle. E certo, e noi, dottor Fantini, sulle pagine di Obiettivo Salute metteremo un link. La ringrazio per essere stato con noi di Primo Mattino, le auguro una buonissima giornata. Grazie a lei e buongiorno, buona giornata. Bene, noi restiamo in tema Covid per parlare di un test che, pensate, utilizzando la saliva potrebbe nel prossimo futuro permetterci di diagnosticare rapidamente l'infezione. Tutto questo si deve all'intuizione di un giovane ricercatore che abbiamo il piacere di avere in linea con noi oggi, Obiettivo Salute Risveglio, il dottor Lorenzo Azzi, ricercatore in malattie odontostomatologiche all'Università dell'Insubria di Varese. Buongiorno, dottore. Complimenti. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, lei ha proprio avuto un'intuizione, che è stata quella di utilizzare proprio la saliva come fluido per diagnosticare l'infezione da SARS-CoV-2. È una intuizione che è venuta in mente a me e al professor Fasano, con cui ho avuto la possibilità di collaborare per realizzare il test che lei accennava in marzo. Perché quando sentivamo le notizie sui telegiornali o leggevamo le notizie sui giornali, si diceva che nel corso di questa pandemia una fonte principale di preoccupazione fossero le goccioline di saliva per la trasmissione del virus da un soggetto all'altro, e che sì, una buona quota delle infezioni fosse dovuta a soggetti portatori asintomatici. Per cui, occupandomi io di saliva nell'ambito della mia professione, ed essendo la saliva un fluido che sempre più in futuro andrà ad occupare un ruolo importante nella diagnostica, abbiamo cercato di capire se ci fosse una strada per individuare la presenza del virus nella saliva in tempi rapidi e veloci, in maniera tale da agevolare la fase 2 dell'infezione. E l'avete trovata perché avete fatto squadra, il vostro studio è frutto di un lavoro di equipe, come le ha accennato dottor Azzi. Sì, nasce da una collaborazione con diversi clinici, ricercatori e soprattutto di una collaborazione tra l'Università dell'Insubria e l'Ospedale di Circolo di Varese. Con questo affiatamento tra università e ospedale è stato possibile condurre una sperimentazione ospedaliera che validasse l'utilizzo di questo test come metodica di diagnosi veloce. Dottor Azzi, mi sembra che il principio di funzionamento di questo test sia simile, mi passi il paragone, a quello del test di gravidanza, perché viene su una piccola striscia di carta assorbente, si applica qualche goccia di saliva, immagino diluita con una soluzione apposita. Esatto, il principio è proprio come diceva lei, è analogo a quello del test di gravidanza, è una metodica che prende il nome di lateral flow, flusso laterale. Il test di gravidanza è quello più conosciuto come test che utilizza questa metodica, che in verità viene sì, utilizzata in tanti altri contesti, tra cui anche la diagnosi stessa dei virus nei fluidi corporei. Per cui funziona applicando appunto un campione di saliva all'estremità di una striscia di carta assorbente, la quale nel giro di qualche minuto, in media andiamo da 3 minuti a 6 minuti, dipende dalla viscosità della saliva, saliva più viscosa ovviamente ci vuole più tempo per farla correre lungo la striscia, ci dà un risultato che è leggibile attraverso la formazione di bande colorate. Sì. Se compare una banda sola vuol dire che il test è andato a buon fine, la saliva ha corso bene lungo la striscia ma il soggetto è negativo, cioè in quel momento non ha la presenza del virus nella sua saliva. Se invece sì, compaiono due bande vuol dire che il soggetto è positivo. quindi che porta l'infezione con sé nella saliva, perché questo test ti individua la presenza del virus attraverso la sua proteina spike. Sarebbe la punta che si vede nei disegni, nelle rappresentazioni sì. del coronavirus. Dottor Azzi, abbiamo capito, ma parliamo di tempi. Adesso che succede? Ma guardi, noi ci siamo stupiti un po' dei risultati, perché all'inizio ci aspettavamo una sensibilità di questo test mediocre o bassa, tale da doverla poi implementare con dei dispositivi tecnologici per aumentare le sue performance. Invece, dopo aver condotto la sperimentazione in ospedale su circa 137 soggetti, ci siamo accorti che questa metodica ha una sensibilità alta, perché siamo al 93%, nella capacità di individuare i soggetti portatori dell'infezione. Abbiamo una specificità invece più bassa, ma cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo diversi soggetti che sono risultati positivi al nostro test, ma negativi al tampone nasofaringeo. Ma ci siamo accorti che più della metà di questi falsi positivi in verità erano positivi comunque alla saliva, anche quando questa veniva analizzata con le metodiche molecolari, cioè le stesse del tampone. Quindi in verità l'avevano veramente il virus nella saliva, e il tampone nasofaringeo in quel momento risultava negativo. Quindi abbiamo un test che sicuramente è in grado di essere molto sensibile nell'individuare quasi più sensibile del tampone? Allora, diciamo che questo test non nasce con lo scopo di sostituire i test diagnostici. I test diagnostici oggi sono i tamponi nasofaringeo, e in alcune parti del mondo, come per esempio in America, stanno sperimentando i tamponi su saliva, guarda caso, perché sempre più evidenze mostrano come la saliva sia il fluido forse più sensibile, o comunque molto sensibile, per poter effettuare la diagnosi della presenza del virus. Questo test invece ha più lo scopo di essere uno screening di primo livello, perché siccome non possiamo pensare di effettuare i tamponi a tutta la popolazione per un motivo molto semplice, non possiamo intasare i laboratori diagnostici, soprattutto in questa fase in cui riprendono anche le attività diagnostiche, diciamo, delle malattie di tutti i giorni, al di là del coronavirus. Serve uno strumento che permetta, attraverso lo screening, di identificare quelle persone che altrimenti non si sarebbero mai sottoposte a un tampone nasofaringeo per poter avere la diagnosi. Allora, sarà possibile quando, finita la prima fase, adesso arriverà nei prossimi giorni un prototipo industriale dall'azienda con cui la mia università ha stretto un accordo, valideremo il prototipo in tempi rapidi, quindi nel giro di qualche settimana risperimenteremo il prototipo sulla popolazione in generale, andando a individuare soggetti ad alto rischio e soggetti a basso rischio di malattia, e chiederemo la certificazione all'Istituto Superiore di Sanità, al Ministero. Se questi passaggi dovessero avvenire correttamente senza intoppi, è ottimistico dire che nell'arco di un mese circa il dispositivo potrebbe essere a disposizione. A disposizione però non del singolo cittadino che può andarselo a comprare in farmacia, tanto per intendere di farselo a casa, perché trattiamo comunque di un problema di sicurezza e di sanità pubblica. All'inizio ci sarà un medico, perché la certificazione per utilizzo da parte di personale sanitario si ottiene rapidamente, normalmente in media ci vogliono 2 settimane, però questo non esclude che con tempi più lunghi si possa prevedere l'utilizzo, visto che si tratta di un test semplice, di facile da eseguire, che non necessita di prelievi ematici o di comunque procedure invasive, possa essere anche effettuato da personale non sanitario autorizzato nei contesti dei luoghi di aggregazione lavorativa o sociale. Allora, incrociamo le dita, dottore. Noi intanto la teniamo d'occhio e la ringrazio per essere stato con noi Obiettivo Salute Risveglio. Spero davvero di sentirla prestissimo. Buona giornata. Buona giornata, grazie. Grazie, complimenti. Noi ci sentiamo come sempre a mezzogiorno con Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Lorenzo Nespoli in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Buona giornata.